Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. Gli accordi arrivati dalle riunioni di Eurogruppo ed Ecofin, le decisioni in merito al fondo di salvataggio europeo, l'attesa rivolta alla soluzione del caso greco, ma anche l'attenzione costante sui debiti sovrani che la scorsa settimana hanno subito il taglio di rating di Standard & Poor's. Sono questi i principali argomenti al centro della cronaca economico-finanziaria europea di questa puntata di Economia in Europa. Lunedì 23 gennaio a Bruxelles si è svolta una riunione dell'Eurogruppo che anticipava l'Ecofin di martedì 24. Dall'incontro è arrivato il rinvio a febbraio della soluzione al caso Grecia, che resta appeso al problema dei tassi di interesse dei nuovi bond che sostituiranno i vecchi. I privati con cui il governo è in trattativa non vogliono scendere sotto il 4%, mentre Atene non vuole salire sopra il 3%. Eurogruppo ha chiesto che si discuta fra il 4% e il 3,5%, auspicando una rapida conclusione delle contrattazioni. Dall'incontro di lunedì è arrivato anche un plauso all'Italia e alle sue misure per conti e crescita, e c'è stato anche un primo confronto sul Fiscal Compact, il trattato sul patto di bilancio. Ora sono previste sanzioni pecuniarie fino ad un massimo dello 0,1% del PIL per i paesi che non si adeguano alle nuove regole sul deficit, non oltre lo 0,5% annuo. Dal 2013 gli aiuti saranno riservati solo ai paesi che avranno ratificato il nuovo accordo. Dall'Eurogruppo è arrivata un'intesa sul testo del Fondo Salva Stati, che sostituirà l'FSF e sarà operativo da luglio. Resta ancora da discutere l'aumento del fondo, che ora è dotato di 500 miliardi di euro, ma che la Germania sarebbe pronta a portare a 750 miliardi. La cancelliera tedesca Angela Merkel, ha scritto il Financial Times, sarebbe pronta a prolungare l'esistenza del Fondo di Salvataggio Europeo e FSF, anche quando entrerà in vigore a luglio il nuovo Fondo di Stabilità. Berlino aprirebbe così di fatto ad un temporaneo innalzamento dei dispositivi di salvataggio europei a 750 miliardi. Il governo tedesco però ha smentito. Sentiamo su questo Antonio Pollio Salimbeni, Radio Cori Il Sole 24 Ore, al termine dell'Ecofin di martedì, al microfono di Sebastiano Barisoni. Oggi è stato confermato, e d'altra parte è stato confermato anche dopo la riunione dell'Eurogruppo stanotte, che la decisione, la verifica della congruità della dotazione di capitale del fondo salvastati permanente, cosiddetto ESM, European Stability Mechanism, sarà il momento buono durante il vertice dei capi di Stato e di governo europei l'1 e il 2 marzo prossimi. Quindi non aspettiamoci decisioni per le prossime 5 settimane. Ciò che naturalmente si sta discutendo, comunque a livello tecnico, sono le piste praticabili. Oggi Monti è stato abbastanza ottimista su questo. Intanto ha detto che di non avere mai indicato una cifra. Sulla stampa italiana è apparsa la cifra dei 1.000 miliardi, cioè il raddoppio della dotazione di questo fondo. Lui dice di non aver mai fatto cifre. In ogni caso lui dice quanto più il fondo avrà una dimensione credibile presso i mercati, tanto meno sarà necessario ricorrere al fondo stesso. Cioè è l'effetto classico, effetto fiducia. Per dirla con Monti o con Lagarde, ça va sans dire. Cioè, ovvio, se si riduce lo spread, nessuno fa ricorso al fondo. Certo, certamente, l'effetto fiducia è chiaro, bisogna vedere se poi questa fiducia nel medio periodo si consolida naturalmente. Da parte tedesca si insiste a domanda, volete l'aumento del fondo? La risposta è sempre un secco no. Però è vero, lo hanno indicato non generiche fonti, ma parlamentari autorevoli del Bundestag, della CDU, il partito della Merkel, che tra le cose di cui si sta discutendo c'è anche questa, il fondo salva stati transitorio, temporaneo, quello che si chiama ESSF, che sta prestando soldi ai paesi sotto salvataggio, emettendo bond, ha ancora 230-250 miliardi di garanzie degli stati eurozona. Queste garanzie potrebbero essere trasferite al fondo permanente che entrerà in funzione dal 1 luglio di quest'anno, per cui la dotazione complessiva fra garanzie, capitale fresco, 80 miliardi, capitale callable, cioè chiamabile, cioè che al momento del bisogno ti viene fuori dagli stati, si arriva a 700-750 miliardi. Questa potrebbe essere l'operazione. Io non ho mai indicato cifre, ma confermo il principio di aumentare le risorse del firewall dell'Unione Europea. Ha detto così il premier Mario Monti a chi gli chiedeva delle voci di una richiesta dell'Italia di raddoppiare la dotazione del fondo da 500 a 1000 miliardi di euro. Sentiamo. Io non ho mai indicato cifre, ma quindi non ho bisogno né di confermare né di smentire, perché non c'è la fonte, quindi... Ci sono tre aspetti, credo, in quello che evocativamente si chiama firewall. C'è l'aspetto quanto, c'è l'aspetto dell'addizionalità, cioè se ciò che resterà inusato, non utilizzato al termine dell'ISFS, si trasferirà o no in dotazione per l'ISM. E c'è poi la questione delle regole di governance per far sì che il firewall, se occorre, possa effettivamente essere usato. Comunque, per quanto riguarda gli ammontari, su cui non ho dato, altri hanno dato indicazioni quantitative, mi limito a una sola osservazione, che se gli importi sono di dimensione tale che i mercati li considerano credibili, è molto probabile che non debbano mai essere sborsati. Ed ecco come ha risposto il presidente del Consiglio Mario Monti a chi gli chiedeva se avesse avuto l'impressione che la Germania frenasse sulla decisione di aumentare la potenza di fuoco del Fondo Salva Stati. La mia percezione, ha detto Monti, è che la visione e le posizioni di tutti i soggetti in gioco sia suscettibile di variazioni. La mia percezione è che la visione, le valutazioni e le posizioni di tutti i soggetti in gioco sia suscettibile di variazione al verificarsi ormai imminente di un accordo politico e poi di una ratifica rapida e quindi di un'entrata in vigore del Fiscal Compact. Questo indipendentemente dall'opinione che ciascuno può avere sul fatto se fosse strettamente necessario o no che l'Europa, oltre che del Six Pack, si dotasse anche del Fiscal Compact. Secondo molti economisti, l'unica soluzione alla crisi europea è che la BCE diventi prestatore di ultima istanza. Credo che si possa assistere ad una evoluzione, ha detto in tal senso il presidente Monti. Sentiamo. Credo che anche lì si possa assistere ad una evoluzione. Del resto, un aspetto importante di evoluzione è stato quello non riguardante i titoli pubblici, ma riguardante le banche, di una grossa operazione di rifinanziamento delle banche condotta dalla Banca Centrale Europea tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre. Al termine dell'Ecofin sono arrivate anche le dichiarazioni del commissario agli affari economici e monetari Olli Rehn. È essenziale e decisivo rafforzare il firewall contro la crisi per riguadagnare la fiducia, ha detto. Sentiamo. A return to recovery and positive growth is likely to be postponed to the second half of this year. Il ritorno a una crescita positiva è probabilmente rimandato alla seconda metà dell'anno. Alla luce di questa situazione, il rafforzamento del firewall finanziario, del sistema di protezione e delle regole sulla governance economica è essenziale per riguadagnare la fiducia nell'economia. Sono particolarmente felice perché ieri abbiamo risolto la questione che riguarda il trattato sul Fondo Salva Stati ISM e abbiamo quasi concluso la discussione sul trattato che riguarda il Fiscal Compact e sull'ulteriore rafforzamento della governance economica. Sul fondo Salva Stati ISM ora i paesi possono procedere alla ratifica in tempo utile per averlo operativo a luglio. Oltre al rafforzamento del sistema di protezione e a una più ampia gamma di strumenti a disposizione per fronteggiare la crisi, spero che sull'aumento delle risorse dell'FMI venga raggiunto un accordo il prossimo mese al G20 in Messico. Stiamo lavorando molto su questo fronte e sarebbe un elemento essenziale di risposta alla crisi. Crisis response. In chiusura un breve approfondimento sul mercato dei titoli di Stato dei paesi europei. Lo spread, il differenziale di rendimento fra i BTP a 10 anni italiani e quelli tedeschi, resta sempre al centro dell'attenzione. Negli ultimi giorni è sceso, portandosi per la prima volta dall'inizio di dicembre poco al di sotto dei 400 punti base, per poi tornare a salire. Lo spread negli ultimi mesi ci ha abituati ormai a molte sorprese. Come è cambiata la posizione degli investitori rispetto ai titoli di Stato? Sentiamo Saverio Scelso, presidente di Copernico SIM. Non c'è stata la fuga dal debito pubblico italiano da parte dei piccoli risparmiatori. Cioè, la gente che aveva investito nei titoli di Stato non è andata in banca a liquidare le sue posizioni, o comunque, se l'ha fatto, non ha fatto certo in maniera massiccia. Forte preoccupazione sì, c'è stata, perché dalle comunicazioni dei media, dagli articoli sui giornali, dal passaparola fra i vari clienti, si temeva che da un momento all'altro lo Stato potesse fare default, parlo dello Stato italiano, potesse fare default, l'euro potesse andare in una crisi, entrare in una crisi irreversibile, e quindi la gente più che altro aveva bisogno di sentirsi in qualche modo rassicurata. Da un punto di vista del mercato obbligazionario ci sono state in quel momento e ci sono tuttora delle straordinarie opportunità, e qui bisogna capire se ci sono, qual è la visione che ognuno di noi ha. Se la visione è di tipo catastrofista, cioè l'euro sta per chiudere, beh, è bene sapere che non c'è un posto sicuro in nessuna parte del mondo, perché l'effetto sistemico e negativo del crollo del mercato dell'euro coinvolgerebbe praticamente tutte le economie mondiali. Se al contrario si pensa che questa può essere una crisi da cui si può riuscire a diventare ancora più forti, credo che chi oggi è compratore nell'area euro e soprattutto di alcuni titoli che in questa area effettivamente pagano un tasso di interesse molto molto elevato, credo si poggiano delle solide basi per guadagni futuri importanti senza eccessivi rischi. Il mercato obbligazionario sembra essersi tranquillizzato rispetto ai mesi passati, anche se ogni asta viene osservata e attesa ancora con fibrillazione, in particolare quelle del Tesoro italiano. Qual è la sensazione del mercato in termini generali e soprattutto qual è stata la reazione alla drastica scure di Standard & Poor's arrivata venerdì 13 gennaio sul debito di 9 paesi europei? Sentiamo Francesca Cerminara, gestore dei fondi obbligazionari di Zenith SGR. Sicuramente è stato un brutto colpo per l'Italia il downgrade di S&P. È vero appunto che non abbiamo avuto ripercussioni sullo spread o sui rendimenti, perché comunque già i rendimenti che vediamo ormai da mesi sui nostri titoli erano ben al di sopra dei rendimenti che in teoria il mercato prezza per un rating di livello A, come era considerata l'Italia, quindi comunque il mercato aveva anticipato di fatto una mossa poi politica che ha scelto di fare S&P, quindi per quello non abbiamo avuto grandi ripercussioni, e poi perché obiettivamente ormai l'Europa e gli investitori europei sanno benissimo tutte le problematiche che stiamo vivendo, proprio perché non sono problematiche ormai conosciute soltanto dagli addetti al mestiere, ma sono problematiche che si sentono in qualsiasi telegiornale, quindi sono sulla comunque a conoscenza abbastanza di tutti, quindi non c'è più l'effetto panico dovuto dalla non conoscenza. Ormai molti problemi sono arrivati al pettine, li sono conosciuti, quindi li sappiamo e stiamo cercando di vedere che cosa la politica potrà fare per mettere veramente un serio rimedio a queste problematiche che sono veramente complesse. Per quello adesso sicuramente un po' di manovre sono state varate, un po' di aiuti politici sono stati elargiti, delle altre strategie politiche e economiche sono state messe in piedi da BCE e comunque i maggiori esponenti governativi dei paesi europei, quindi le idee ci sono, il mercato sta attendendo per vedere come saranno gli sviluppi pratici di queste idee. E con questa settimana, con Economia in Europa, è tutto. Economia in Europa. In collaborazione con Euronet.